Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, benvenuti ai nostri ascoltatori. Lunedì 29 dicembre 2008, un qualche minuto di anticipo, 8, 28, quasi 30 secondi, parliamo di qualità della vita. Il Sole 24 Ore di oggi porta in prima pagina l'annuale classifica sulle città italiane dove si vive meglio, un insieme di 36 indicatori che vengono messi insieme, vengono un po' mischiati, agitati e viene fuori qual è la provincia dove si vive meglio. Quest'anno Aosta al primo posto, seguito da Belluno, Bolzano, Trento, Sondrio, Trieste, quasi l'intero arco alpino. Ne parliamo con Aldo Bonomi. Buongiorno Bonomi. Buongiorno Fabi, buongiorno a voi. Grazie mille Bonomi, sociologo, direttore del Consorzio Aster, un'associazione che studia il territorio, grande esperto dello sviluppo e del sottosviluppo, talvolta territoriale, delle grandi trasformazioni che sono in corso in Italia, trasformazioni che ogni anno vengono fotografate da questa analisi. Allora abbiamo iniziato col dire è la vittoria dell'arco alpino, lo ricordo, Aosta al primo posto, Belluno, Bolzano, Trento, Sondrio, Trieste, sono le città che aprono la classifica. Per trovare una città non dell'arco alpino, anche Trieste fa parte un po' dell'arco alpino, anche se è una città di mare, qualcuno mi direbbe subito, e lo dico subito io che so che Trieste è una città di mare, ma in fondo completa appunto l'arco delle Alpi. La prima città al di fuori di questa linea è Siena, e poi troviamo però subito dopo Gorizia, che come tutti sanno è vicino a Trieste. Allora Bonomi, è la vittoria della montagna sulla pianura? Ma direi che se guardiamo un po' la serie della classifica del Sole 24 Ore, è una tendenza consolidata in cui la piattaforma alpina, quel lungo arco che va da Cuneo fino a Gorizia, per citare due delle città che sono ben posizionate ma che ovviamente non hanno vinto. Se lei ricorda, direttore, diciamo così, che sono anni che l'alternanza è tra Trento, Belluno, Aosta, Sondrio, si oscilla sempre tra questi 4-5 che sono ben posizionati. Cosa dire rispetto a questo? Cosa caratterizza questa piattaforma alpina? In primo luogo, se andiamo dal punto di vista economico, da un mix produttivo, da un intreccio. Non dimentichiamo che quel PIL, quel reddito, 34.000 euro che è il reddito di Aosta, e Caltanissetta è esattamente la metà, 14.000, è sotto la metà, 14.000 da questo punto di vista, quel PIL è prodotto in primo luogo da un intreccio di attività economiche in cui c'è un po' di turismo, un po' di agricoltura di qualità e di manutenzione del territorio, un po' di fabbrica, un po' di distretti che sono risaliti. Ricordo a tutti cosa significa il sistema dell'occhiaieria, ad esempio per Belluno, ma una risalita a salmone di piccole e medie imprese che si sono insediate. Ricordo ad esempio che ci sono vallate alpine come la Valle dell'Adige, che sono anche modelli di industrializzazione senza fratture, cioè di un'industrializzazione che convive con la manutenzione del territorio, quello che Giorgio Fuà chiamava il metal mezzadro, cioè quelli che fanno un po' di manutenzione del territorio, un po' di agricoltura e un po' di lavoro di fabbrica nelle imprese, eccetera. Un po' di terziario, non dimentichiamoci che, come cita uno studioso molto qualificato come Quadrio Curzio, in alcune di queste aree siamo di fronte a distretti bancari. Cito la Valsellina, ad esempio, con alcune banche che continuano ad operare e operano su tutto il territorio nazionale, quindi luoghi in cui c'è anche una lunga tradizione del risparmio, se vogliamo passare invece non più solo dai fattori economici ai fattori culturali, quindi un rapporto con il denaro, il sacrificio, la tendenza e il risparmio molto radicate. E quindi, primo dato, il mix produttivo, che non c'è un'unica attività produttiva. Mi ha colpito ad esempio in questa classifica che alcune aree a specializzazione industriale o produttive scendono, cioè dove c'è la monocoltura, da questo punto di vista non si riesce, mentre invece il mix, l'intreccio aiuta e giova. Questo è il primo dato. Il secondo dato è la dimensione. Si potrebbe dire piccolo e bello, non andrei in questa direzione, però certamente sono tutte nemmeno città medie, tutte le città che tu hai citato, se escludiamo Trento, che è una città insomma in espansione ed è una città media abbastanza grossa, io penso ad esempio a Sondrio che non supera i 24.000 abitanti, quindi siamo in una dimensione veramente micro, anche Aosta non è una grande città, quindi ovviamente la dimensione delle forme di convivenza, mentre invece sempre nella classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, non dimentichiamoci che tutti gli indicatori delle città che superano, diciamo così, il milione di abitanti, le famose mitiche aree metropolitane, ovviamente tutte quante scendono e quindi ovviamente secondo dato questa dimensione della forma, oserei dire, usando una parola pesante, che ovviamente è in crisi dentro la modernità, in queste forme comunitarie del vivere. Ad esempio, altro indicatore che emerge, che anche dal punto di vista della sicurezza, ad esempio, emerge che Oristano, altra piccola città, in cui oltre a un problema di ordine pubblico e di efficienza delle forze di sicurezza, delle forze di polizia che controllano il territorio, attenzione, in queste micro aree esiste ancora quello che era il controllo sociale, cioè la società che controlla se stessa e quindi ovviamente una serie di cose che funzionano. Sì, però, indubbiamente ci sono molte cose che funzionano, molte cose appunto anche che segnalano il fatto che alcuni appunto distretti industriali segnano il passo, altri sembrano crescere, per esempio Ascoli Piceno sale come posizione ed è forse la prima città dopo, c'è anche Oristano al 19° posto, 20° Milano, 21° Ascoli Piceno nella fascia alta della classifica, altre tradizionali invece città industriali come Bergamo o soprattutto Prato si trova al 75° posto, Prato ha perso molti posti anche per segnalando appunto una difficoltà di ristrutturarsi, di trovare una nuova dimensione. Ecco, io ricordo gli ascoltatori l'800 24 00 24 e parlando appunto di queste classifiche ricordo anche che sono basate su 36 indicatori che fanno capo a 6 aree principali, tenore di vita, le affari e lavoro, i servizi ambiente, l'ordine pubblico, la popolazione, il tempo libero e così per esempio nel tenore di vita ovviamente Milano dove il reddito può capita è più alto al primo posto, ma negli affari e lavoro, dove si misura il tessuto imprenditoriale, è Cuneo al primo posto, per i servizi ambientali è Trieste, la città più efficiente, per l'ordine pubblico, ricordava Bonomi poco fa, è Oristano che vince questa classifica, la popolazione vede l'Aquila in vetta per numero di laureati e densità demografica e ultimo il tempo libero è Aosta, la vincitrice poi della classifica generale che ha i maggiori servizi per il tempo libero. Sentirei Andrea da Como, buongiorno. Buongiorno, complimenti perché è sempre interessante, mi lascia sempre molto perplessa questa classifica, perché mi chiedo se non sia ispirata a una sorta di pensiero minimalista mitteleuropeo. Io sfido chiunque se dovesse scendere in strada e dire preferiresti vivere a Roma o ad Aosta, sfido chiunque a trovare una maggioranza di aostani. Mi spiego, faccio l'avvocato del diavolo, sono tutte città dove i tassi di alcolismo sono più alti della media nazionale. Sondrio fino a qualche anno fa era una città con uno dei più alti tassi di suicidio. Sono città dove psicologicamente sono città fondamentalmente tristi, sono bellamente tristi. Secondo questi parametri non so, Marsiglia, Nizza, Genova sarebbero città dove sarebbe impossibile vivere, ossia mi sembrano criteri dove una sorta di estetica, un concetto di estetica sia in qualche modo bandito e ci sia una sorta di qualità della vita di stampo molto borghese ma molto conformista. Io abito a Como, è una città dove non so da che punto della classifica sia, senz'altro abbastanza in alto, medio, forse su alcuni criteri in basso, ma è una città, io sono salentino, dove ci vivo, ho delle persone care ovviamente, perché ho la mia famiglia, ma non la scambierei mai con la mia città di origine che è Lecce, che senz'altro sarà molto più in basso nella classifica. Ossia, questa è un po' la mia perplessità, una sorta di pensiero unico ispirato da alcuni valori che sono valori che vorrebbero essere universali, ma che non tengono conto di un concetto soggettivo di estetica, di calore umano, di una serie di parametri che forse non essendo misurabili non sono in qualche modo presi in considerazione. Ecco, la ringrazio, no, indubbiamente sono osservazioni molto interessanti, posso rispondere almeno in parte sul fatto che ovviamente tutte le classifiche hanno un che di arbitrario, perché si scelgono certi elementi piuttosto che altri, si mettono in luce certi valori piuttosto che altri, quindi c'è indubbiamente un po' di soggettività, però in queste classifiche, mettendo insieme proprio 36 parametri diversi, alcuni sono parametri oggettivi, misurano una realtà, misurano il numero per esempio di librerie, misurano il numero di furti commessi, misurano dei numeri oggettivi che sono incontrovertibili, altri parametri sono invece parametri di sentiment e nascono proprio dal cosa pensano i residenti, cosa pensano sulla base della percezione che hanno i problemi che hanno di fronte, quindi sul fronte sia dell'ordine pubblico, sia degli svaghi, sia del tempo libero. Queste classifiche nascono da un sondaggio svolto appunto da un istituto di sondaggio, un istituto di marketing, che ha sentito proprio le popolazioni sul loro gradimento del territorio, quindi mischiano un po' dei dati oggettivi con dei dati soggettivi. Ovviamente poi ognuno potrà valutarli come vuole e dare a vivere dove vuole, e quindi però servono anche queste classifiche a capire dove sono i punti deboli, servono anche per chi deve decidere a attuare delle politiche come possono essere decise per migliorare la qualità della vita, e in fondo per capire meglio ciascuno di noi come si può vivere meglio nel posto dove si è, e in fondo il posto dove si è si dipende da tanti fattori, e non penso che uno si metta a tavolino guardando le classifiche per scegliere dove andare a vivere domani, e in fondo si vive dove si hanno gli affetti, dove si ha la famiglia, dove si hanno le relazioni sociali. Aldo Bonomi. Beh, la domanda dell'ascoltatore mi trova molto d'accordo, Fabi. Cerco di spiegarmi. È ovvio che gli indicatori usati per questa classifica prendono in considerazione anche e entrano in questo famoso dibattito sulla dittatura del PIL, no? Tanto per capirci. E quindi non è che ci sono solo parametri economici. Siamo partiti da lì, siamo partiti dall'economia per capire, però giustamente l'ascoltatore ci invita a tenere in conto anche quello che viene chiamato il PIC, cioè gli indicatori della qualità della vita. E in parte la classifica li affronta, perché quando si va a vedere temi o numeri che riguardano la dimensione del tempo libero, la dimensione dei servizi sociali, la dimensione delle possibilità di avere relazioni, la tranquillità sociale, beh, questi sono tutti indicatori che rimandano alla qualità della vita. Però sono d'accordo sull'affermazione dell'ascoltatore che in parte dietro a questo successo dell'enclave alpino, se vogliamo usarlo in questa dimensione, c'è un senso di tristezza. Che cosa voglio dire? Io anni fa definii questi territori, queste aree, aree tristi, provocando ad esempio l'ironia di coloro che abitavano qui, dicendo ma noi non siamo affatto tristi. Ma la tristezza in che cosa consiste? Molto spesso consiste nel non avere coscienza dei grandi processi di cambiamento che arrivano. In fondo, quando io ho descritto questi territori, sono tutti territori che vengono attraversati dal cambiamento, e il problema è viverlo con coscienza. È vero che ci sono indicatori come quelli dell'alcolismo e come quelli dei suicidi, ad esempio, che in queste aree denotano che il rapporto con il grande cambiamento che viene avanti o con la qualità anche economica del vivere non viene, c'è una fascia di popolazione che non la regge. Quindi bisogna sempre stare molto attenti su questi indicatori e su queste classifiche. Sono anche d'accordo, come dice lui, che non cambierebbe mai Lecce con Como, lo capisco, nel senso che qui non posso che rispondere con una battuta o con un pezzo di Cesare Pavese che ricorda a tutti noi che per tutti noi resta sempre lassù il paese, nel senso che resta sempre su lassù il territorio da dove siamo nati, le radici, o anche qui uso una parola pesante, la comunità originaria, e quindi queste classifiche non servono ovviamente per puntare il dito e dire vado a vivere dove la qualità della vita o il PIL è più alto. Sono anche d'accordo, e la classifica lo conferma in questo caso, sull'altra osservazione che l'ascoltatore faceva, che se si va, diciamo così, a fare un'inchiesta per strada e si chiede a qualcuno, dice ma tu dove vorresti vivere, non c'è dubbio che l'immaginario collettivo rimanda a forme metropolitane, tant'è che la classifica del Sole 24 Ore ci dice che a fronte di questa domanda mi par di ricordare che le risposte rimandano a Firenze, Roma, Milano, quindi quelle che sono o la città d'arte nota oppure la grande città metropolitana. L'immaginario è sempre quello, l'immaginario vincente è questo qua. Poi però dall'immaginario alla dimensione dei numeri reali danno questa classifica. Grazie Aldo Bonomi. Oggi parliamo della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Aosta prima in qualità della vita, questo è quanto esce dalla classifica. Ne stiamo parlando con Aldo Bonomi, sociologo, esperto dei territori, dello sviluppo territoriale. Ma ascoltiamo Giuseppe da Barletta. Pronto? Sì, pronto. Due domande velocissime. Se l'indagine è stata fatta sulla città o sulla provincia, e il contributo della pubblica amministrazione in queste classifiche molto molto particolari che denotano appunto un tenore di vita più o meno buono nelle città, con una valutando una serie di misuratori. Volevo sapere se il misuratore della pubblica amministrazione contribuisce e in quale percentuale contribuisce. Grazie. Grazie delle domande, e riguardano gran parte dei dati, anzi la quasi totalità dei dati riguardano le province, sono dati appunto basati su indagini territoriali che riguardano appunto l'intera provincia a cui fa riferimento la città. Riguardo la pubblica amministrazione, ovviamente è compresa in queste analisi in molti punti. Possiamo citare i servizi ambiente e salute, dove si parla di presenza di infrastrutture, di pagella ecologica, di sicurezza nelle strade, di tasso di dispersione scolastica, di velocità della giustizia, cioè di cause esaurite su cause nuove e pendenti, quindi sul fronte dell'amministrazione della giustizia. E poi ci sono altri dati che possono fare riferimento alla pubblica amministrazione, riguardano per esempio l'occupazione, l'efficienza dei servizi per l'impiego e altri elementi che sono maggiormente sparsi all'interno appunto delle 36 categorie in cui sono divise, in cui vengono classificate ogni città, ogni provincia. Quindi in questo senso il fatto della realtà appunto amministrativa ha certamente un peso. Ecco, possiamo ricordare come, e lo ricordano alcuni sms che sottolineano, alcuni in positivo e altri in negativo, che gran parte delle città che fanno parte della prima fascia della classifica, e in particolare Aosta, Bolzano, Trento e Trieste, fanno parte di regioni a statuto speciale, quindi regioni autonome che hanno, alcuni li chiamano privilegi, altri larghe autonomie. Aldo Bonomi, questa autonomia è parte del successo? Beh, direi di sì. Non c'è dubbio che in tutte le città che fanno parte delle prime cinque, se si esclude Sondrio, tutte quante stanno dentro un regime amministrativo. Beh, anche Belluno fa parte del Veneto. Ecco, Belluno e Sondrio sono le due aree che non fanno parte. Tutte le altre, dal Friuli Venezia Giulia al Trentino e alla Val d'Aosta, hanno un discorso di autonomia. Direi però che anche qui il discorso dell'autonomia è un discorso ben più radicato, prima ancora della dimensione amministrativa. Ricordo che Belluno, se uno va a vedere nella storia, la tradizione bellunese è che veniva chiamata la magnifica comunità ai tempi della Repubblica Veneziana, con tutto ciò che questo significa e con la sua autonomia. E quindi diciamo che sono territori che, essendo sempre state su aree di confine, e questo è un altro dato importante, nessuno lo nota, ma le Alpi come aree di attraversamento e di confine hanno sempre avuto un concetto di autonomia più radicato. Ovvio che l'autonomia amministrativa, quella che tu hai chiamato con un po' di ironia l'area dei privilegi, aiuta, non dimentichiamoci ovviamente che qui abbiamo delle agevolazioni dal punto di vista economico che fanno ovviamente salire quel famoso PIL, quel famoso indicatore dei 34.000, però vorrei ricordare che anche la regione che è ultima in classifica ha uno statuto di autonomia, la regione Sicilia ha uno statuto, la regione siciliana ha uno statuto di autonomia, quindi diciamo che, se vogliamo metterle in questi termini, abbiamo il confronto tra due modi di utilizzare l'autonomia, perché anche la Sicilia è una regione autonoma, come il Friuli Venezia Giulia d'altronde. Certo, infatti Catania, Siracusa, Trapani, Agrigento, Palermo, Caltanissetta chiudono questa classifica della qualità della vita e sono ai posti più bassi. Sentirei Mauro... Prego, Aldo Bonomi. No, dicevo questo per dire, Fabi, che non è spiegabile solo ed esclusivamente con l'autonomia questo fattore di successo, perché come vediamo, a secondo di come la si usa, l'autonomia può produrre, virgolette, primazia o può produrre, diciamo così, arretramento. Grazie. Mauro da Modena, buongiorno. Buongiorno direttore, suo ospite, professor Bonomi. Infatti, io quando ho telefonato, la mia domanda era esattamente quello al quale loro in questo momento hanno risposto, nel senso che non è ininfluente che tre regioni sulle regioni italiane siano statuto speciale. È ovvio la differenza appunto fra tre regioni statuto speciale e in confronto con la Sicilia, sicuramente è dovuto anche alla buona amministrazione che hanno queste tre regioni privilegiate, insomma, nel senso che evidentemente la Sicilia bisogna fare un punto interrogativo sugli amministratori. Io poi sono frequento da 30 anni come fondista l'Alto Adige e vi assicuro che effettivamente si sente, si vede la qualità della vita. Comunque io sono di Modena e sono felicissimo di abitare a Modena, perché amo fondamentalmente la mia città. Comunque la risposta mi convince, insomma, il fatto che ci siano dei privilegi che secondo me nel federalismo fiscale bisogna rivedere, perché credo che sia ormai il punto di riguardare questa cosa, che mi sembra un po' un privilegio eccessivo. La ringrazio, buongiorno direttore, al suo ospite. Grazie mille, grazie a lei. Enrico da Sondrio, buongiorno. Buongiorno, io sono di Pescara, della provincia di Pescara, ci tengo a precisarlo. Mi trovo a lavorare in provincia di Sondrio e in parte quello che volevo dire lo ha già detto l'ascoltatore di Como, ma lui viveva a Como e non viveva a Sondrio e quindi mi sento di poter aggiungere qualcosa. La prima è il famoso indicatore PIL. Ecco, io ora lavoro a Livigno, che è una stazione sciistica che credo che i più conosceranno, ma non tutti sapranno che lì altro che autonomia dello statuto speciale, lì lo Stato non fa l'IVA, i carburanti costano 60 centesimi, l'alcol 2 euro e quindi è normale che l'indicatore PIL salga a dismisura, perché penso che salirebbe ovunque se le tasse sul reddito sono del circa il 40% del proprio reddito, anche a Caltanissetta, raddoppiando il reddito, quindi non pagando imposte sul reddito, sull'IVA, il PIL pro capite va a finire a 32 o 33 mila, non lo so, ma non è questo quello che conta. Lì in provincia di Sondrio, per esempio, non c'è un metro di superstrada. Quindi sì, ok, avranno pure tanti soldi, ma per arrivare a Milano ci vogliono 5 ore, non c'è un metro di ferrovia a doppio binario, non c'è una multisala, non c'è un teatro stabile o un teatro che abbia una programmazione degna di questo nome, non c'è una stagione sinfonica o lirica degna di questo nome, non c'è un aeroporto internazionale vicino, sì c'è Milano, ci vogliono comunque 3-4 ore per arrivarci. Mentre io da Pescara in un'ora sono a Roma, in mezz'ora sono in un aeroporto internazionale, ho 5 multisale con 12 schermi, una stagione sinfonica, eccetera, eccetera, eccetera. Non è solo una questione di PIL, la qualità della vita, come ha detto bene l'ascoltatore di Como, non si misura solo col PIL. Io sfido chiunque a vivere in un paese montano, come è poi la Valtellina, e poi a vivere a Roma o a Firenze, forse anche a Palermo, e a vedere cosa è meglio e cosa è peggio. La ringrazio, lei ci conferma il fatto che la qualità della vita è quella di ciascuno di noi, ciascuno di noi la misura con i suoi parametri, la misura con la sua esperienza, con la sua storia, con i suoi desideri. Ci saranno persone che in una città di mare vivrebbero come in una prigione e persone che in una città di montagna si sentirebbero disadattate. Ogni esperienza umana ha un suo valore, ha una sua esperienza, però è l'insieme delle esperienze di tutti, poi quella che fa un paese, che fa una nazione. Riconoscersi anche nel fatto che valorizzare le esperienze di tutti può essere un modo per capirsi meglio e quindi per aiutarsi gli uni agli altri. Non ci possono essere poi soluzioni per ciascuno di noi. Io sentirei per concludere Aldo Bonomi proprio un giudizio finale, un giudizio complessivo su queste classifiche. Sono importanti perché fanno riflettere, però non danno dei giudizi definitivi. Devo dire che l'ultimo intervento, che parte non più solo dall'autonomia, ma addirittura da una zona franca, ricordiamoci che Livigno, dove il nostro ascoltatore di Pescara vive in questo momento e lavora in questo momento, è una zona franca. Però vorrei rispondere a lui dicendo in primo luogo che alcuni degli indicatori che lui cita sono assolutamente presi in considerazione in queste classifiche. Ad esempio, la dimensione delle infrastrutture e di collegamento è un indicatore molto importante. Non c'è dubbio che da questo punto di vista Sondrio è un territorio che non è dotato di grandi superstrade. Non c'è dubbio che l'altro indicatore che lui cita, ad esempio quello delle multisale o del teatro stabile, sono tutti indicatori contenuti nella classifica, perché quando si va sul tempo libero gli indicatori certi che vengono utilizzati sono questi. E allora rimane il grande quesito è se ad esempio la qualità della vita e la classifica dell'arco alpino è data perché non adotta in toto il modello metropolitano a cui lui fa riferimento. Lui dice, partendo dalla mia città adriatica che è Pescara, in un'ora e mezza sono a Roma, ma non solo. Ecco, dobbiamo concludere, Aldo, per favore. Allora, il problema è molto semplice. Capire che l'insieme delle differenze, ognuno parte dalle differenze e dalle specificità, ognuno parte da queste, l'economia da solo non basta, e ovviamente chiudo dicendo quello che dici tu, che questo è il nostro sistema paese, direttore, che le differenze sono queste, il vero problema rimane è quello di mettere assieme l'arco alpino con il mezzogiorno. Grazie mille. Questione ancora irrisolta. Grazie, con questa prospettiva continuiamo a seguire le nostre classifiche e continuiamo anche ognuno a fare il proprio dovere. Grazie ad Aldo Bonomi, grazie a Camillo Loricello in regia, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.